Come ogni lunedì parliamo di economia e lo facciamo insieme a Giacomo Bracci, che è in linea con noi. Buon pomeriggio, Giacomo. Buon pomeriggio, Alessandro. Questa settimana parliamo un po' di banche, perché sembra che questo tema lambisca la campagna elettorale. C'è stato qualche settimana fa il tentativo del Partito Democratico di cambiare Visco alla presidenza della Banca d'Italia. In questi ultimi giorni abbiamo visto un'anticipazione, diciamo così, del lavoro della commissione d'inchiesta parlamentare presieduta da Casini sulle banche, e Casini dice la vigilanza non ha funzionato. Aiutaci a capire un po' meglio cosa sta succedendo nel mondo bancario italiano. La commissione presieduta da Casini ha fondamentalmente alcuni obiettivi molto chiari. Il primo è quello, come dicevi, di accertare quali sono le responsabilità della vigilanza nell'aver omesso o quantomeno non effettuato al 100% il proprio dovere nel controllo dei casi patologici, quindi delle banche venete e di altri, di Banca Etruria e di molti altri. Poi quello di cercare di recuperare i famosi elenchi dei creditori i cui crediti sono deteriorati, quindi quei creditori che praticamente hanno ricevuto ingenti somme di denaro in prestito senza poi restituirle, ma senza poi essere in qualche modo perseguiti dal circuito bancario, proprio perché si pensa che in alcuni casi ci fossero delle relazioni di carattere politico, di carattere personale, o comunque delle corsie preferenziali legate all'identità di queste persone. Poi c'è anche l'obiettivo di verificare se ci sono stati o meno dei casi di porte girevoli, cioè dei casi in cui alcuni funzionari di alcune banche abbiano poi ricoperto dei ruoli all'interno di Banca d'Italia che sono stati legati poi alla vigilanza delle banche stesse, e ci sono alcuni casi in questo senso che sono stati attenzionati dalla commissione proprio per questa ragione. Ci sono ad esempio 3 ex impiegati della Banca Popolare di Vicenza che poi sono andati a lavorare in Banca d'Italia. La Banca d'Italia ha risposto che questi impiegati non sono stati occupati nella vigilanza della Banca Popolare di Vicenza stessa, quindi ha escluso nella sua risposta questa possibilità, ma la commissione continua ad indagare. Poi c'è il problema del perché Monte dei Paschi di Siena sia fallita, perché nel senso di ricostruire il processo attraverso cui la banca sia fallita. La stampa spesso ha dato la maggior parte, diciamo, dell'enfasi a tutta una serie di strumenti derivati che sono stati creati ad arte per spalmare negli anni una serie di perdite molto gravi in conto capitale, così da poter continuare, diciamo, a distribuire utili. I 2 nomi dei derivati segreti più famosi sono Alexandria e Santorini, curiosamente greci, e questi derivati sono stati scoperti dalle nuove gestioni di Monte dei Paschi di Siena, ma erano stati creati da molto prima, e infatti l'idea è che siano stati tenuti segreti anche alla vigilanza di Banca d'Italia, proprio per evitare che ci fossero dei campanelli d'allarme che provenivano dall'istituto di vigilanza già prima. E poi l'idea è anche quella di convocare, l'idea della commissione è anche quella di convocare Mario Draghi, perché prima di essere governatore della BCE è stato governatore di Banca d'Italia, e quindi chiaramente la vigilanza negli anni precedenti all'accumulo delle cause di crisi era proprio in capo a lui in quanto governatore di Banca d'Italia. Si pensa appunto che Banca d'Italia, ad esempio, sotto la gestione di Mario Draghi abbia potuto consigliare e autorizzare l'acquisizione di Banca Antonveneta da parte di Monte dei Paschi, che anch'essa è stata una importante fonte di accelerazione, diciamo, della crisi dell'istituto senese, proprio perché poi si è trattato di un grosso dispendio che però non ha portato la banca ad avere una posizione competitiva o una posizione di profittabilità molto maggiore rispetto a prima. Chiaramente, se Draghi dovesse essere chiamato dalla commissione, il caso diventerebbe immediatamente di rilevanza europea, sicuramente attirerebbe l'attenzione di tutti i media del continente, ma anche dei mercati finanziari, ed è per questo che diciamo la pista Draghi è battuta con una certa cautela, proprio perché il sistema bancario italiano, che già è in una condizione difficile ed è sicuramente sotto lo scrutinio dei mercati finanziari, ricordiamo che ad esempio Ray Dalio, il gestore di Bridgewater, aveva ammesso e anche divulgato, diciamo, in maniera esplicita il fatto di aver venduto allo scoperto i principali titoli obbligazionari e le azioni del sistema bancario italiano, quasi scommettendo su un crollo dei corsi di questi titoli nel futuro più immediato. Quindi c'è molta cautela in questo senso. E dietro a tutto ciò c'è anche una polemica politica, insomma, rilevante, nel senso che una delle banche coinvolte chiaramente dall'operato della commissione, Banca Etruria, nome, diciamo, del padre di Maria Elena Boschi, continua a comparire nelle indagini. C'è anche un caso che proprio è recentissimo, cioè quello del procuratore di Arezzo, che di fronte alla commissione parlamentare ha omesso il fatto che appunto il padre di Maria Elena Boschi sia iscritto nel registro degli indagati. Questo ha dato origine a un vespaio di polemiche, da un lato dai deputati del PD, che hanno continuato ad attaccare, diciamo, la gestione di Banca d'Italia in questo caso, e dall'altro, insomma, da tutti gli altri esponenti politici che cercano di enfatizzare le responsabilità del padre di Maria Elena Boschi all'interno della vicenda. A mio avviso c'è da separare due piani in questo caso, cioè un piano che potremmo chiamare micro e un piano che potremmo chiamare macro del problema bancario. Il piano micro è legato ai casi singoli, ma anche a, diciamo, una certa gestione del business bancario che in Italia è sempre stata quella privilegiata, cioè un rapporto tra capitalismo quantomeno provinciale di medie dimensioni, spesso legato anche al sistema politico, e sistema bancario, il quale, anche se da 1993 appunto cambia forma e non è più, diciamo, un sistema bancario a forti tutele pubbliche, ma cerca di diventare un sistema bancario privato e competitivo, comunque rimane legato a determinate dinamiche politiche. E questa cosa l'abbiamo vista poi operare in diversi casi. Quello delle banche venete è il più recente, il più eclatante, cioè il fatto che questo rapporto privilegiato tra imprese legate alla politica e banche ha causato poi una sorta di flusso di prestiti irresponsabili che una logica puramente di mercato avrebbe sicuramente impedito. Però l'altro, il problema macro, è forse quello che viene meno evidenziato quando si parla di queste cose all'interno sia del dibattito politico che della stampa, nel senso che, a prescindere da quelle che sono le politiche di mala gestione poi delle singole banche e anche magari delle omissioni di una vigilanza che ha preferito forse in alcuni casi, diciamo, non infierire in maniera pesante sui casi critici, c'è un'evidente corresponsabilità del cambiamento legislativo europeo sulla rischiosità del sistema bancario in generale, perché quando parliamo di banche spesso pensiamo a qualcosa di molto chiaro, solido, e il complesso di regole che stanno dietro alla redazione dei bilanci bancari ci fa pensare che sia tutto molto oggettivo. Nella realtà le banche, così come tante altre imprese di questo settore, hanno un ampio margine di discrezionalità nello stabilire qual è il valore dei propri crediti, cioè qual è il valore dei propri attivi, e questo significa che spesso anche la definizione di quello che è il capitale netto della banca, cioè quale potrebbe essere il valore totale del capitale versato dagli azionisti, che in un'impresa è chiarissimo perché si tratta di praticamente sommare gli utili in ogni periodo e si ottiene quel capitale. Nel caso delle banche è tutto molto più difficile perché i prestiti, quando vengono erogati, poi il loro valore residuo viene calcolato, diciamo, sulla base di un margine di incertezza, e questo margine appunto determina quanto quel capitale sia grande o piccolo. In questo senso il fatto di aver introdotto con la famosa nonché famigerata direttiva BRRD la normativa sul bail-in ha causato un immediato sconquasso in quello che è la classe di rischio delle obbligazioni bancarie italiane, proprio perché, diciamo, che di fronte a qualsiasi tipo di pericolo o percepito dal pubblico sulla solvibilità della banca, cioè sul capitale bancario, il quale, come abbiamo detto, è una grandezza fortemente arbitraria, ha comunque generato un fattore critico che ha portato sicuramente ad un incremento dei rendimenti di queste obbligazioni e ha aggravato la situazione delle banche. Per cui anche, diciamo, in un contesto di gestione bancaria oculata o comunque non viziata da quei problemi micro di cui abbiamo parlato in precedenza, il problema macro, cioè il fatto che la regolamentazione europea abbia influito sull'accelerazione della crisi dell'intero sistema bancario e che quindi abbia portato ad esplodere quelle parti del sistema bancario che erano già prima in crisi, ecco, questo è un aspetto che non viene a sufficienza evidenziato all'interno del dibattito italiano, ma è per esempio motivo di discussione in Europa, tanto è vero che anche nelle commissioni del Parlamento europeo in cui sono presenti eurodeputati italiani si parla esattamente di questo, cioè si parla del come la normativa sul bail-in abbia accelerato le cause di crisi e non abbia di certo aiutato a diminuirle. Ti ringrazio. Grazie a te e a voi. Alla prossima. Alla prossima.